Alice, ciao Marica. ciao Radio Risacca, benvenute a Cemento e Curcuma, la settima puntata, vi chiediamo scusa per la settimana scorsa, spero che possiate perdonarci. E oggi vi parleremo, come pianta della settimana, della salvia o anche Salvia salvia. officinalis. Brava, sì, detta anche. Erba sacra o tè di Grecia o Serbia. Esatto, della famiglia delle labiate, dal latino Salvare. o. Godere di buona salute. Oh, quindi è una pianta dalle mille, mille, mille proprietà. Adesso le scopriremo tutte. E quando è il momento giusto di raccoglierla, soprattutto? Soprattutto in primavera o in estate, quindi adesso è il momento ottimale per raccoglierla. Quindi approfittatene. Approfittatene tutti E tutte. e tutte, e il momento di raccolta migliore per la famiglia delle labiate è la mattina, Ok. soprattutto la mattina presto, Ok. perché le labiate sono anche la lavanda, il rosmarino. Essendo ricche di oli essenziali, evaporano con il calore, quindi in questi giorni che fa tanto caldo, raccogliamole Di di mattina, mattina. quindi mettetevi la sveglia presto, ok? E fate questa azione fantastica. E abbiamo scoperto che questa è una delle piante più utilizzate fin dall'antichità come curativo di piaghe o anche come forte diuretico. E poi nel tempo abbiamo scoperto anche molte altre proprietà, quali tra queste, soprattutto queste proprietà, le tiriamo fuori dalle foglie secche, ok? E scopriamo con la nostra amata infusione quali benefici ci può regalare. Quindi, un'ottima. Antisettica, antibatterica. Esatto. La salvia è fortemente ipoglicemizzante, quindi se si hanno problemi di glicemia. Abbassa i livelli di zucchero nel sangue, quindi soprattutto se avete problemi di diabete, approfittate con le infusioni. Poi è molto diuretica. Stimola il fegato, è un depuratore del sangue e questa è una cosa super simpatica e libera le flatulenze. Quindi se avete dei problemi di scureggette, questa è l'infusione che fa per voi. Poi stimola l'appetito, ha proprietà toniche e stomachiche e aiuta a risolvere i problemi intestinali legati alle diarree, ok? Ed ha anche un'azione estrogena. Che significa estrogena, Alice? Cioè che stimola la produzione di ormoni estrogeni, quindi Quindi. prettamente femminile. La salvia è una Esatto. pianta femminile. Questo non vuol dire che gli uomini non possano usare la salvia, ma in un tempo ridotto, nel senso se si vuole fare una cura con infuso di salvia che duri un mese, per un uomo è consigliato 2 settimane, che duri 2 mesi, per un uomo è consigliato un mese, eccetera, eccetera. Esatto, ok. E questo infuso lo possiamo anche utilizzare come uso esterno. Per questo vi dicevamo che la salvia è una pianta fortissima dalle mille proprietà, è super versatile, la possiamo usare in tutti i modi. Uso esterno vuol dire che, per esempio, nelle terapie di gengiviti, di carie, di parodontopatie, delle ulcere, delle gengive. Questo infuso potete utilizzarlo come un colluttorio ed è super efficace, fortissimo, vi sfiammerà tutto l'apparato orale. Ok? Fate degli sciacqui come un classico colluttorio oppure potete tamponare le gengive con un batuffolo di cotone. E Attenzione. attenzione, questa è una nota importantissima, soprattutto per le amiche mamme o in fase di allattamento, di evitare di assumere la salvia perché può provocare l'arresto del latte. Quindi, amiche mamme, purtroppo non potete utilizzarla, ok? Poi adesso, siccome appunto dicevamo è una pianta super versatile, vi parliamo dei semicupi, che fanno benissimo alla pelle, fanno benissimo al vostro spirito anche. E lo possiamo fare macerando 4 manciate di foglie secche di salvia in acqua fredda per una notte. Dopodiché mettete tutto sul fuoco e fate arrivare a ebollizione, spegnete e filtrate. Poi lo potete aggiungere all'acqua del vostro bagno. Questo semicupio è particolarmente indicato per tutte quelle persone molto nevrotiche o quelle donne con malattie addominali. È anche buonissima per depurare la vostra pelle. E a proposito di depurare, la salvia viene usata, soprattutto la salvia bianca, non sì, quella classica che troviamo, anche se si può fare anche con quella classica nostrana mediterranea. Si fa essiccare i mazzetti e si usa come un incenso, cioè si brucia la foglia secca e si infonde per tutta la casa. Questo, esatto, depura l'ambiente, depura dalle energie negative, è un rituale di purificazione che veniva usato fin dall'antichità, sia dalle nostre nonne delle nonne delle nonne, sia oltremare dai nativi americani. Esatto, quindi approfittatene, usatela quando sentite delle energie negative che vi circondano, bruciate un po' di salvia, che fa benissimo e vi purifica dentro e fuori. Tin tin! Purita dentro e bella fuori. Purita dentro, bella fuori. Purificata dentro, purificata fuori. Fantastiche. Okay. Usatela, fateci sapere se vi è piaciuto, se vi siete purificate, se vi siete fatti dei bei bagni, se vi siete fatti degli sciacqui. Comunque la consigliamo tantissimo la salvia. E poi non dimentichiamo che la potete utilizzare in tutti i vostri piatti, sia di carne, minestre, è ottima per tutto, ok? E adesso, ragazze, ricettina. Adesso se magna. Sì, oggi parleremo di una bella ricettina gastronomica, potete fare dove volete, quando volete. Questa è una minestra fredda di pomodori all'andalusa, ok? Ingredienti per 4 persone. Allora, circa 800 grammi o 1 kg di pomodori ben maturi. Ok. Uno spicchio di aglio. Ok. Un cetriolo. Olè. Una cipolletta. Olè. Una cipolla piccola. Ce l'abbiamo. Un peperone verde o rosso, giallo, come piace a voi. Ok. Il succo di mezzo limone. Okay. E circa 3 cucchiai di olio extravergine di oliva, sale, certo, peperoncino, e ci servono i grossini di pane integrale, pane se tostato, volete, quello sì, che ci piace di più. Preparazione. Allora, sbucciate il cetriolo e frullatelo insieme ai pomodori, alla cipolla e al succo di limone. È un pizzico di sale, ovviamente. Ok. Si versa tutto il frullato in una zuppiera e si condisce con l'olio. Ok. Alla fine di tutto questo si versa e si guarnisce con il peperone a cubetti e il peperoncino tagliato a rondelle. Ok. Si serve passando a pasta i crostini tostati, okay, oppure a chi piace direttamente dentro, insomma, un po' a scelta, ovviamente, se magna. E dai, tipo io i peperoncini ci metto freschi perché mi brucia. Invece io il peperone, perché comunque sono allergica, quindi comunque potete modificare questa minestra fredda come volete, a vostro gusto. E si può servire anche in altri modi, si può servire con cosa? Con l'uva, con gli acini interi di uva che addolciscono il tutto. Wow, questo è da provare, eh? Interessante. Buono. A chi le piace il dolce, perché a te ti piace il dolce. Invece a me invece piace del più con l'uovo, ad esempio. Con l'uovo sopra, l'uovo sodo, l'uovo cotto al tegamino, insomma. Certo, e questo è fantastico perché è un piatto unico. E appunto con delle uova sode sopra, tritate, è un piatto ricco di fibre, di principi attivi, antiossidanti e protettivi, ed è perfetta per combattere la disidratazione ristabilendo l'equilibrio idrosalino. Quindi è anche una minestra detox, lo possiamo dire? Sì, più idratante, ecco, idrosalina, cioè riequilibrante della quantità di acqua e nel sali minerali. Corpo. Sì. Se per esempio non bevete tanta acqua, questa è una minestra fredda che fa per voi. O se vi è stata a sudare pure l'anima di lì. Con questo caldo. Provatela, fateci sapere. Io ve la consiglio, è buonissima. Adesso vi lasceremo altre due ricettine per farci perdonare. Vero Alice? Sì, però non si mangia stavolta. Non si mangia, queste sono ricettine per la nostra bellezza, per la nostra cura esteriore. Beauty, super fashion beauty style. Ok. Dei genero. Allora faremo un bellissimo e buonissimo shampoo agli agrumi per i capelli grassi. Questo è indicato per tutti, sia uomini che donne che bambini, quindi potete usarlo. Ok, scopriamo come si fa. Vai Alice. Allora, il contenitore che ci serve è da circa 250 grammi o millilitri. Ok, ce l'abbiamo. Allora, compriamo uno shampoo delicato. Ok, neutro anche. Sì, non pieno di tensioattivi che fa tanta schiuma, quindi... Esatto. Tranquillo. Sì. E ne usiamo 200 ml. Ok. Poi ci servono 50 ml, possiamo fare anche cucchiai, 3-4 cucchiai abbondanti di olio extravergine di oliva. Ok, per nutrire bene i nostri capelli. Yes. Poi? E l'olio essenziale, 6 gocce a scelta tra arancio, bergamotto, limone e salvia. E salvia, visto che ne abbiamo parlato, c'è anche la salvia. Perché sono tutti oli che vanno a nutrire i capelli. Esatto, li rendono forti, sani e lucenti. Allora, si prepara versando lo shampoo nel flacone pulito che abbiamo. Oppure una bottiglietta di vetro scuro se non abbiamo un flacone. Certo, sempre, perché ricordiamo, il vetro scuro serve a proteggere gli oli essenziali dai raggi solari. Yes. Ok, poi si aggiunge l'olio d'oliva e gli oli essenziali. Si tappa e si agita energicamente per un po' di minuti. Shakera. Come Shakira. Si conserva a temperatura ambiente per 3-4 mesi, quindi fatevi la doccia e ciao. Eh sì, lo potete usare, quindi 3-4 lavatevi i capelli. Che ci arriva a 4 mesi. E come si usa? Allora, si agita prima dell'uso perché si andrà a dividere l'olio essenziale dallo shampoo che abbiamo usato, quindi si agita. Si lava i capelli, come sapete, lava i capelli. Esatto, classico shampoo, inumidite i capelli e poi lo applicate. Okay. Ok, e vi lavate i capelli come se fosse il vostro classico shampoo, solo con l'aggiunta di tante cose buone. Allora, vi diamo questa ricettina perché lo shampoo così diventa molto più delicato, perché i shampoo di adesso sono pieni di tensioattivi, di agenti chimici che ingrassano ancora di più i vostri capelli. Sì, li aggrediscono proprio. Adesso con l'arrivo dell'estate, dove abbiamo altri agenti corrosivi tipo il sole, il sale del mare, il cloro della piscina, i capelli si seccano. Sì. E diventano la pagliuzza. E diventano paglia, si spezzano, si opacizzano. Quindi grazie a questo shampoo riusciamo a dargli un po' di vita, un po' di volume. Sicuramente anche saranno meno grassi grazie all'aiuto degli oli essenziali che purificano anche il vostro cuoio capelluto. Giusto? Yes. E adesso vi lasceremo la nostra terza ricettina. Questo wow. È sempre una ricettina di bellezza, ok? Per i vostri dentini, per sorridere meglio, per avere sempre denti bianchi e smaglianti. Visto che abbiamo fatto il colluttorio alla salvia, ora faremo anche un dentifricio in polvere al tè verde, rimanendo sempre in tema verde, in tema green. Come lo facciamo, Alice, il nostro dentifricio? Allora, per 100 grammi di dentifricio non ci serve il coso del dentifricio. Prendiamo no. una un barattolo in vetro e ci mettiamo 3 cucchiai di argilla bianca finissima. Ok. Però mi raccomando, comprate quella per uso interno. Quando l'andrete a comprare, chiedete specificatamente per uso interno. Ok. Anche può andare bene anche quella ventilata, no, non solo quella bianca, basta che sia per uso interno, molto fina. Esatto. Poi un cucchiaio di bicarbonato di sodio, un cucchiaino di sale marino fino, okay, integrale, non integrale, rosa, blu, come mi piace, okay, e un cucchiaino di tè verde. Okay. Poi si aggiungono gli oli essenziali, si mescola tutto e si aggiunge 7 gocce di ciascuno di questi. Quali? Se ne abbiamo, allora, quello di menta, di finocchio e di salvia, in okay, totale fanno un 21 gocce. Sì, quindi se nel caso non avete tutti questi oli essenziali, ne avete solo uno tra menta, finocchio e salvia, l'importante è che raggiungete le 21 gocce totali. Sì, okay? Io direi anche di meno, perché alla fine in 100 grammi di dentifricio, se usiamo 20 gocce di menta, si sente tantissimo. Esatto. E brucia in bocca, quindi io non consiglierei anche 10-15 gocce, insomma. Ok, vedete, fate un po' di esperimenti. Marica, ma dici un po' il procedimento. Allora, il procedimento, allora mettiamo tutto in un macina caffè elettrico, quindi bicarbonato, il sale, e riducete tutto in una polvere sottilissima. Se non avete un macina caffè elettrico e avete un po' di pazienza, potete farlo anche con un mortaio. Poi passate tutto in un setaccio finissimo, versate dentro il vostro barattolino e aggiungete l'argilla e gli oli essenziali, e con molta cura, con una bacchetta, un cucchiaino, miscelate in modo che tutti gli oli si distribuiscano nella polvere. Questo contenitore lo potete conservare, l'importante è che abbia un tappo ermetico, e lo potete conservare a temperatura ambiente per più di 6 mesi. È facile da fare, soprattutto è super economico e di lunga durata. Ok, come lo usiamo? Importantissimo, inumidite lo spazzolino. Si pressa sul dentifricio in modo che la polvere aderisca allo spazzolino. Okay. E poi si lavano i denti come al solito. Ok. E quali sono le particolarità di questo dentifricio? Secco, mi raccomando, è un dentifricio secco, quindi non avete sbagliato niente se rimane in polvere, lo precisiamo. Sì. E che proprietà ha questo dentifricio? Lascia l'alito molto più fresco rispetto ai normali dentifrici che usiamo, quindi okay, è super efficace. I denti diventano molto più bianchi per la presenza del bicarbonato e del sale. Ok. Quindi anche le gengive ne risentono efficacemente, sempre per la presenza del sale e degli oli essenziali, che ricordiamo sono tutti antibatterici e tutti antisettici, quindi meglio dell'olio essenziale non c'è niente. Esatto, e non contiene alcol, soprattutto rispetto a tanti dentifrici o rispetto a tanti colluttori commerciali, quindi senza alcol. E poi il nostro amatissimo olio essenziale di salvia combatte il tartaro, mm-hmm, quindi protegge le gengive in maniera totale. Mm-hmm. E grazie anche al sale marino e ai tannini presenti nel tè, combatte tutte le infezioni legate al cavo orale, quindi anche le carie. E il tè contiene fluoro, quindi dà un effetto antibatterico a tutti gli oli essenziali, a tutta la vostra bocca, vi disinfetterà, vi purificherà. Vedete, la salvia è proprio la pianta magica per eccezione della vostra salute. Ovviamente ci vuole un po' di equilibrio. No, di pazienza, perché non è un dentifricio come gli altri, insomma non fa schiuma, non è dolce, non lascia un sapore in bocca, cioè lo lascia per la presenza degli oli essenziali, ma comunque ha un sapore amaro perché c'è il tè, perché ci sono gli oli essenziali sempre amari come la menta, la salvia, quindi no, l'effetto non sarà quello di un normale dentifricio. No, però avete la sicurezza di avere tutto il vostro cavo orale perfettamente igienizzato. Molto di più. Molto di più di un classico dentifricio commerciale che comprate al supermercato. Ok, provatelo. Noi lo facciamo spesso. Dopo vi mandiamo una foto con un sorriso. Ting! Sto sorriso smagliante e brillante. E adesso speriamo sempre col nostro cuore che vi sia piaciuto tutto quanto, e consigliamo sempre, speriamo sempre che seguirete quello che vi consigliamo. Provatele. E adesso è il momento della nostra saggia, che ci lascerà come ogni settimana la nostra perla. Prego, saggia. Chi ha la salvia nell'orto ha la salute nel corpo. Grazie. La salvia grazie. Ti salva dalla serie, proprio. Se molto vuoi campare, salvia devi mangiare, quindi dobbiamo continuare. Dobbiamo continuare. Io direi a posto così. Sì, grazie Alice. Arigato. Arigato, grazie alla nostra saggia, sempre nel cuore. E grazie a Radio Risacca. Un bacio a tutte e a tutti. E ci salutiamo. Addio, addio, amici, addio. Sì, no, non abbiamo finito, abbiamo una amica che chiede consiglio e ci ha inviato un vocale. Ascoltiamola. Sì, ciao ragazzi, ciao Radio Risacca, a belle dottoresse Marica e Alice. Ciao. Ma volevo sapere, vi ha seguito in queste rubriche del sabato di Cemento e Curcuma, e vorrei sapere, siccome mi sono appena spremuta un mega brufolo sulla chiappa, cioè presente la parte proprio dell'attaccatura del culo con la coscia, quella che quando cammini ogni volta che mi toccasse un brufolo mi fa un male? Sì. E me lo sono spremuto, è uscito tutto pus, fiumi. Mi fa pus. Piacere. E poi adesso, ragazzi, dottoresse, che mi consigliate di metterci? Grazie. Grazie Cristina per il tuo intervento. Per chi non l'aveva riconosciuta, Cristina. Grazie alla nostra amica. Che cosa le consigliamo, Alice? Oddio, allora, io le ho appena consigliato un unguento di perico e calendula. Perfetto. Che è perfetto, abbiamo anche fatto già la puntata sull'iperico, è cicatrizzante, antibatterico eccetera. Per chi non avesse i nostri splendidi unguenti ci può contattare. Dai. Può comunque, per i brufoli in generale, può correre a comprare un olio essenziale di tea tree che secca immediatamente il brufolo in un'oretta massimo. Esatto. Però mettetelo con un goccio d'acqua, pure puro. Non brucia tutto? Su, brucia che sì, però con un codon fiocco, con un fazzoletto, una goccina piccola sopra il punto. Grazie per il tuo intervento, spero che il tuo brufolo guarisca presto. Fresco presto. E a presto. E ciao, ciao Radio Risacca, ciao a tutte, ciao a tutti e contattateci per qualsiasi urgenza e vi risponderemo al numero verde. Al numero verde 0 2. Ciao.